Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Caro Maurizio, cari ascoltatori, buona serata. 22 8 minuti, Blu Radio Veneto, l'appuntamento con Rock Wave Live del mercoledì, l'appuntamento live clou della nostra settimana di musica e interviste dal vivo nei nostri studi oppure anche al telefono. Insomma, comunque sapete che Blu Radio Veneto vi propone quasi ogni sera cose di questo genere. Questa sera con noi, Maurizio, dammi una mano. Sì, stasera con noi abbiamo un gruppo che viene da Parma. Hanno fatto un po' di viaggio, però un viaggio bello, musicalmente è sempre bello. Che altro la pronuncia? Idea. Semplicemente così. Idea all'italiano. Bello, limpido, idea all'italiano. Facile, sì, facile, sì, facile. Sì. Come state? Avete fatto un buon viaggio, sì? Sì. Ciao a tutti. Benissimo. Bene, sì, bene, sì, è stato positivo, molto positivo. Allora, Idea è una band che non è nata adesso. Innanzitutto presentiamo i componenti. La voce, io ringrazio la voce, il vocalist Matteo, che stasera è venuto anche se aveva un abbassamento di voce, vero Matteo? No, un'influenzina, ma niente di che. Esatto, aveva un'influenzina, però la musica, come avevamo prima parlato con Grazia Cinquetti, la musica supera anche l'influenza, cosa dici? Assolutamente sì. Ecco, benissimo. Allora, Matteo, visto che ci sei, presenta anche gli altri componenti della band. Prendo questo microfono perché, sì, perché questo è già pronto per il live. L'effetto chiesa. No, sì, abbiamo al basso Antonio, al synth... Che ha un bel Fender, fammi vedere sto Fender. È un Fender. Che bello, sì. Il Fender è sempre bello, ha sempre una certa caratteristica, un certo fascino. Guarda che bel manico. Esattamente, bellissimo, dimmi. Ai synth e tastiere abbiamo Ale. Che bella Roland. Alla chitarra abbiamo Rocco e stasera suonerà il cajon, che è una percussione per questa improvvisazione acustica, e in realtà lui suona la batteria e i campionamenti, sì, stasera... ed è Federico. Bravo. Stasera chiaramente la batteria, questione di spazio, non ci stava, abbiamo optato per l'altro strumento. Esatto. Bene, dove nascono musicalmente, come si sviluppano, dov'è l'input che ha fatto partire l'idea? Ma molto molto molto tempo fa. Abbiamo cominciato molto giovani, nel lontano 96-97. Ci siamo incontrati, eravamo adesso non sto qua a dire chi siamo incontrati. Abbiamo deciso di mettere insieme appunto diciamo il primo line-up, cioè la prima versione della band nel 96-97. Nel 98 cominciamo il nostro percorso musicale, che parte da un rock un po' più duro, un po' più energico. Poi diciamo, l'avete un po' smussato in alcuni nel momenti. Corso degli anni ci siamo modellati. Abbiamo, ma avete aperto anche come band, come io ho notato nella quello spulciando, i 24 Grane. 24 Grane è un gruppo molto interessante. Sì, abbiamo avuto la fortuna di aprire a svariati artisti e nel 2003 di incidere il nostro primo disco negli studi di Casa Sonica a Torino, che è lo studio storico di Subsonica. Esattamente. Come mai c'è stato questo incontro con Casa Sonica? Ma diciamo che più che altro è stato il nostro vecchio manager, cioè tutto quello che era il nostro vecchio management, che ha preso contatti con appunto, riuscito, Casa Sonica, certo. È riuscito ad incastrare il discorso della produzione appunto di questo primo disco. È stato un incontro molto molto buono e produttivo, quello con all'epoca lontano 2003 prima. Sono passati 10 anni, esatto. Ho detto 2003. L'ha scritto perché sono decisamente molto smemorato. Sì. Per quel che riguarda le date, cari ascoltatori, me l'ha scritto a lettere cubitali. Sì, sì. Oltre ad essere smemorato, sono anche ceccato. Vabbè, siamo in più di uno, anche me compreso. Niente, no, all'epoca Omar, il nostro vecchio manager, lavorava con i Meganoidi. In un concerto che abbiamo fatto a Parma, abbiamo aperto i Meganoidi. Lui ci ha sentito, ci ha voluto. Abbiamo avuto la fortuna di registrare questo primo lavoro, che ci ha portato a girare l'Italia. Abbiamo fatto quasi 45-46 date nell'arco di 2 mesi e mezzo, 3. Il nostro bassista vuol dire qualcosa, volevi dire qualcosa? Cosa devo dire? No, pensavo volessi dire qualcosa. Hai visto il basso? L'ho visto il basso. Esagerato. Anche Rockway, anche questa. Cioè, certo, libertà totale di dire, di esprimere. Dimmi, Matteo. No, e dopo abbiamo avuto un attimo di transizione, un paio di elementi hanno lasciato la band per decisioni. Esatto, c'è stata una evoluzione. Sì, appunto, come dicevo poco fa, avendo cominciato molto presto, ovviamente gli anni passavano e molta gente ha optato per un paio di elementi hanno optato per un altro tipo di percorso. Esattamente. E noi invece siamo tornati in studio a lavorare a Ogni cosa intorno, che è il nostro secondo album. Sì, dopo cioè, sono passati quanti anni dal 2003? Circa 10 anni. Sono passati 5-6 anni, sì. Abbiamo più che altro cercato soprattutto anche un altro tipo di produzione, un altro tipo di arrangiamento. Avete voltato pagina, possiamo dire questo. Esatto. Ci è venuto incontro il signor Andrea Fumagalli, che è il tastierista di Blu Vertigo, ha fatto la produzione artistica di tutto quello che poi andremo a sentire, perché stasera siamo qui a presentare. Cosa ha influito Andy sul vostro sound? Secondo me qualcosina sì. Beh, Andy ha azzeccato esattamente probabilmente quello che era il nostro percorso odierno, ovvero mischiare il pop rock alla wave, quindi c'è un po' di elettronica tra l'80 e Ale, tu che dici? Assolutamente sì. Ok. E quindi abbiamo cercato un attimino di mischiare quello che è il pop. Coincidere è un sound che ama molto il nostro regista Sergio, è molto molto vicino a questo. E dopo facciamo una chiacchiera io e il regista. No, tu e il regista fate una chiacchiera. Ok, partiamo con il primo pezzo che abbiamo scelto dal disco nuovo. Ti ricordi il titolo, Matteo? È Ogni cosa intorno. Il primo brano, che è il primo singolo, che è il nostro primo singolo, esatto, estratto da questo secondo album. Lo sentiamo e poi ne parliamo. Okay? Sì. Ok, eccolo qui. Come fosse un livido la toccherò per soffrire ancora un po'. Riempirò questa stanza delle tue parole, dei sospiri che abitano qui con me. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Maurizio. Bello, bello. Un singolo che apre il disco, che apre dal titolo al disco, la title track. Fare una title track non è mica una cosa semplice, è una cosa importante, perché deve dare un'immagine all'album, un qualcosa all'album. Voi a microfono spento mi avete parlato, Candy ha fatto solo i suoni, il resto avete fatto tutto voi. Perché il pezzo era già presente, sì, era, canzone, era già composto. In questa canzone Andy ha ritoccato i suoni, appunto, e il pezzo era già nato così. E appunto era già abbastanza singolabile, almeno alle nostre orecchie. Alle sì, ma singolabile di un certo rilievo, non è singolabile banale. Banale, ecco, vero? No, no, beh, vi ringraziamo. effettivamente è una canzone che ci ha colpito tanto anche a noi, e quindi è stata scelta appunto come primo singolo. Sì, perché è accattivante anche musicalmente, è una melodia che entra immediatamente, anche se non è facile, è fatta bene, è fatta in una certa maniera, non è buttata così. No, no, diciamo che insomma, no, il nostro background culturale musicale ci ha portato a lavorarla in un determinato modo. Quanto tempo ci avete messo per lavorarla in una certa maniera, Matteo e company? Perché sono i company, ci possono parlare anche gli altri, certo. Compreso il nostro tastierista Ale, che vuole parlare assolutamente. Prego. Dimmi. Su questa canzone intendi? Su questa canzone e sul genere. Credo che sia comunque il pezzo che direi che abbiamo lavorato anche di meno, cioè, rispetto agli altri, perché è venuta così. Sai, ci sono... Sì, sì, funziona subito. Matteo era arrivato in sala prove con questa idea. Abbiamo buttato giù. Sì, no, subito. Quasi. Questo pezzo di più. Correggi. Devo correggere. Matteo è arrivato con questa idea, ma degli accordi erano, certo, gli accordi erano questi. Ma gli piaceva fare un basso più veloce, la canzone deve essere più veloce, il basso deve essere più distorto. Esatto. Te lo ricordi? Sì, sì, sì. Beh, ovvio. Da lì si è formata da sola. Ah. Sì. Lui ha fatto un verso, io ho suonato il basso in maniera diversa. Lì dopo si basta, ho finito la correzione. Cioè, in studio però si costruisce, si cambia, però come abbiamo detto era già formato questo pezzo. Sì, è nato già abbastanza pronto, diciamo così. E appunto la title track, cioè il pezzo che dà il titolo al disco, e non è un concept, ma poco ci manca, perché comunque ogni cosa intorno volevamo che fosse collegato, leggermente collegato. Ripeto, non è un concept, però in ogni canzone indubbiamente c'è qualcosina. Posso chiederti una cosa, Matteo? Sì. Questi pezzi, Matteo e gli altri, che fanno parte di questo nuovo disco, erano già pronti, possiamo definirlo, non dico un greatest hits, ma molto materiale era già pronto, era già preparato. Ma noi siamo una band che fortunatamente scrive tanto. E ha sempre avuto tante idee, dalle più sbagliate probabilmente a quelle meno, a quelle giuste. E posso dire che non erano tutte prontissime, perché poi Andy, come ripeto, ha messo mano a tante cose. Però vi ha lasciato molta libertà. Ha lasciato molta libertà perché la sua idea era quella di non snaturare. E questa è la cosa importante, fondamentale. Sì, sì, no, è molto importante perché non voleva snaturare nemmeno il feeling che c'era fra di noi, perché noi obiettivamente, adesso non per sviolinare, però siamo nel bene e nel male una famiglia, noi suoniamo da tanti anni insieme. Cioè comunque e poi per questo album qua, sì, dimmi, c'è stata una cernita di tanti brani, ho capito, perché i brani erano tipo una ventina. Quindi poi da 20 siamo arrivati a 12-13. Sì, parla un momento vicino al microfono. Vieni, Fede, non temere. Vieni, qua. Ecco, vai, vicinati un momentino. Da 20 pezzi abbiamo tirati fuori questi 13 che fanno parte dell'album, e altri sono rimasti... Perché non siano sono scattati, no, che non siano no, meno assolutamente. Validi. Alcuni, però, obiettivamente li abbiamo messi da parte, e poi magari non possono essere mai rivisti, come possono, certo, rimanere lì nel cassetto. Possono essere rivisti anche dal vivo, potete suonare dal vivo i nuovi che non avete messo nel disco, o no? Diciamo che ancora non ci abbiamo pensato. Esatto. Comunque ci sono 2 o 3 pezzi che non sono stati inseriti nel CD, perché non volevamo fare un CD con troppi pezzi. Che faranno parte del nuovo lavoro. Può essere che facciano parte del nuovo Se lavoro. Lo faremo. Perché dici così? Perché comunque perché sono pezzi di qualche anno fa. Perché non è detto, perché magari ti piacevano qualche anno fa, o magari li riprendiamo e li arrangiamo, oppure ci vengono delle idee nuove che ci fanno stare meglio e li vediamo in maniera migliore. Erano comunque dei bei pezzi. Sì, non credo che li butteremo via. No, cosa dici te, il nostro chitarrista? Non li vendiamo. Accetti, sì, confermi. Sì, sì, confermi al 100%. Sì, Rocco, cogliamo l'occasione anche per presentarlo, perché Rocco è con noi da pochissimo. Ah, ecco, quindi Rocco è appena, confermo, appena entrato. È una new entry, esatto. Io comunque dico sì, pezzi, anche quelli vecchi che non ho sentito sono strepitosi. Bravo, no. Perfetto, va bene. Ok, a proposito di pezzi strepitosi, quelli da sentire, siamo pronti? Ce la fai, Matteo? Sì, sì, sì, no. Adesso improvvisamente non so, sarà la tensione, l'ansia, ma ho il naso abbastanza libero. Forse è il caldo che è qua dentro. È probabile. Ora, cosa ci fai sentire? Ci fate sentire adesso? Cominciamo con un brano dal titolo Immagino, sempre estratto dal nostro secondo disco. Perfetto. Ogni cosa intorno. Ok. Immagino che non ci sia più tempo, immagino che tu abbia già deciso senza me, immagino sia stato facile dirmi che in questo niente resta un po' di te. Forse è necessario andare via per disintegrare ciò che resta ancora qui, per dimenticare quel che siamo stati. Se in questo niente resta un po' di te, dimmi. Eccezionali, bravissimi, veramente bravi. Intensa, grazie, bellissima, sì, sì, molto, una bella molto. Ballad, sì. Una ballad pop, però di un certo peso. Beh, a me piacevano molto gli intrecci vocali. Io qua davanti il bassista, vicino il bassista che gioca in senso positivo con la voce. Cioè, ti inserisci, mentre Matteo dà la voce solista, e ti inserisci perfettamente anche il nostro organista, il nostro se mi dà il permesso. Tendo molto a inserirmi, forse un po' troppo. Antonio, vabbè, Ale è sempre stato il nostro corista, prima che arrivasse Antonio. La doppia voce. Poi Antonio è arrivato, ha sostituito il vecchio bassista, un po' di tempo fa, e Antonio è un cantante, quindi non solo suona il basso. Esagerato. ho aggiunto un coro e siamo diventati in tre. Ma è bello, secondo me musicalmente il coro dà un certo peso. Questa era una ballata pop, giustamente, come anche sottolineato, esatto, Sergio. E il coro, la sonorità vocale dà un certo non so che. Sì, è vero, sono anche coloro che durante i live, nel momento in cui magari devi cantare due ore, ti aiutano tanto, soprattutto certo, quando sotto hai delle belle voci, perché certo, entrambi sono cantanti eccelsi. Esattamente. Che poi ricordiamo che queste sono, cioè, versioni, come dire, unplugged, sì acustiche, perché poi nell'album è completamente l'opposto. Certo, cioè, ma è bello, cioè, il discorso dei live che si fa qui in Blu Radio Veneto è quello di trasformare i pezzi, di fare un altro concerto, sì, di molto più molto intimo, esattamente, bellissimo. La bellezza è questa. Devo, scusami, dai, dai. Devo dire che l'elettrico mi piace moltissimo, perché sono nato così, ma l'acustico mi piace molto anche perché mi fanno cantare molto. un grande ha sempre detto che se una canzone funziona bene, chitarra e voce deve, quando funziona chitarra e voce, sì, si può fare in qualsiasi diverse faccettature. Hai ragione, ma proprio Matteo, il cantante, proprio ha detto canta di più, canta, e sì, mi piace quando lo dice, mi piace molto. No, perché adesso era più di voce ed è per quello. No, gli dai una mano. Nei nostri concerti acustici, che tra l'altro facciamo in giro, perché portiamo in giro anche quello come spettacolo, diverso dall'elettro completamente. È diverso anche da quello che facciamo qua. Diverso anche da questo che sentiamo e facciamo in questo momento, perché l'abbiamo riarrangiato in altra maniera, ma lui mi fa cantare anche di più, proprio per abbellire la cosa, credo. Sì, assolutamente. Assolutamente. E a me fa molto piacere cantare. Ma molto. Hai detto una cosa bella, ripetendo il discorso. L'acustico è cambiato, quindi stasera avete fatto un acustico proprio per questa serata. Sì. Bello, è interessante. L'abbiamo preparato apposta per Blu Radio Veneto. Sangue, sudore e lacrime, blood, sweat and tears, cioè bisogna sudare anche a fare l'acustico diverso. Assolutamente, ma vabbè, è un bellissimo sudare. È bello. Musicalmente quando si crea si suda, ma un sudare bello, secondo me. Assolutamente. Benissimo. Ok, 22:30, cosa dici, Sergio? Un altro pezzo dall'album che abbiamo scelto? No, benissimo, facciamo suonare. Aspetta, sì, perché in scaletta, dimmi, ho quell'altro. Ah, quell'altro. Quello con non mi ricordo più chi. Con Benedetta Giovannini. Bravissimo. Allora, il pezzo che andiamo ad ascoltare adesso è un featuring con una cantautrice di Arezzo, che è la sorella della purtroppo compianta, sì, Valentina, certo, che ha partecipato appunto nel 2002 a Sanremo. Benedetta ha ascoltato Incomprensibile, a Benedetta è piaciuto Incomprensibile, e con Benedetta abbiamo inciso Incomprensibile, e l'abbiamo resa come adesso andremo ad ascoltare. Ovviamente non è la versione del disco, ma sarà un reprise, qualcosa che andremo a riprendere più avanti. Benissimo. Intanto noi siamo molto felici perché la presentiamo per la prima volta qui in radio da voi. Ah, bene. Quindi Incomprensibile, feat. Benedetta Giovannini. Saprei perdermi fra le mani di questo mio vuoto, per non cercarmi più, non voglio più ascoltarmi ora. È ooh. All'interno di Rock Wave Live di questo mercoledì ci sono gli Idea, Maurizio. Sì, dobbiamo. Gil che era qui, sta facendo le Hai sentito che finale? Sì, appunto. Parlavamo sì, con io. Come mai? Ha dato un finale prog, assolutamente sì, prog. No, questo sì, è sì. Questa idea è di Andy. È totalmente di Andy. Ti ha messo qualcosa anche te. Ma vai davanti al microfono di Matteo, così parli. Non temere. È lontano. Va bene così. Va bene che ho i bacilli che ormai hanno infestato l'aria. Se vuoi tirare su quello giù. Il microfono quello giù. C'è un microfono dietro di te? Quello giù. E poi, no, uso l'altro. Se vuoi non lo usi quello lì, No, okay. È tutto dal vivo, anche lo spostamento. Assolutamente, tutto dal vivo, ma è bello così. È bello così. No, parlavamo del pezzo allora. È un pezzo molto, come giustamente faceva notare Sergio, un finale molto bello, un finale all'idea di Andy, ma anche musicalmente... Aspetta, volevo dirtelo, esatto. Senza offesa, senza offesa però. Seriamente. Ma infatti ce l'ha proposto per far Sanremo. Andy ce l'ha proposto, ma... Lo sappiamo tutti. È presto. No, cos'è che sto dicendo? Che a Sanremo spesse volte magari cerchi di portare una cosa un po' diversa dal solito, come hanno fatto i Subsonica con Tutti i miei sbagli, o i Blue Vertigo con si chiamava quella L'assenza. Fanno male, sto male. Sì. Questo qua invece è un po' sanremese. Classico, molto classico, però giusto, bello, proprio perfetto. ci sono sanremesi e sanremesi, però questa è una certa qualità. Sì, appunto, va bene, e questo è importante secondo posso me. Dire una cosa? Dimmi. Posso dire una cosa, visto che mi sento a casa mia qui, mi pare giusto. Non so, ascoltandola in cuffia a un volume così, boh, a me forse sono patetico, ma ti ha emozionato? Sì, pelle d'oca sto pezzo. Ma lei la Benedetta da molta bellissima forte. Voce. Benedetta è dal vivo. È un angelo. Dal vivo abbiamo fatto un concerto il 18 gennaio. E, è venuta come ospite. Due prove, è venuta come ospite al nostro concerto. Abbiamo fatto fare due o tre pezzi con noi, di cui il suo gennaio l'ha cantata con noi. Perfetta, intonatissima, arrivata alle note originali. Bravissimo. Nessuna differenza da quello che sono. Assolutamente. A proposito di questo, quindi il pezzo è piaciuto moltissimo a noi. Piace, dimmi. Volevo dire solo una cosa che so che a Benedetta ci tiene a questo. Sarà all'ascolto forse stasera. Però sì, è probabile che sia in ascolto. È probabile che sia in ascolto, esatto. E questa canzone è totalmente per Valentina. Certo, assolutamente. Certamente. A proposito di questo, dobbiamo dire che stasera siete qua grazie al merito del nostro direttore artistico che va scovato, che è stato sono veramente bravi questi, ha fatto bene, quindi via Alberto Pisco, che ringraziamo. Possiamo già ricordare i vostri contatti, perché di solito, caro Maurizio, li ricordiamo sempre a mezzanotte. Sito stanca. Facebook, queste esatto. cose sì, qua. Il nostro sito è ideabox.it, H-I-D-E-A, idea con l'H davanti, ideabox.it, e lì ci sono poi dopo tutti i vari Facebook, quindi Idea Facebook e Twitter, abbiamo tutto linkato tutto lì, esattamente in ideabox.it. Allora, adesso suoniamo. Suoniamo. E che cosa suoniamo? Facciamo un pezzo, sempre tratto da Ogni cosa intorno, si intitola Lei dorme. Perfetto. Oh. Fragile, forse fragile, la sua immagine lontana è il silenzio. E poi mi libero, e poi mi libero del cuore, come semplice che strano rumore. Le mani, ricordi sbiaditi, offuscati da troppi pensieri, gli errori pagati e quelli già dimenticati. Bravi, bravissimi, bravi, bravi, bravi. Sì, dobbiamo sì, grazie mille. Dobbiamo dire anche che Matteo è andato su col falsetto, cosa molto difficile, e sono molto contento. Io amo particolarmente la gente che usa il falsetto. Sì, ultimamente un po' inflazionato, però non so, diciamo però, che sì, non facciamo noi. Non ha qualche non facciamo noi. Tonalità alla Baroni. Magari, questo sarebbe un complimentone. Cavolo, questo me la gioco come un complimentone. Magari, ragazzi. Un po' sì. Ma diciamo che non lo so, va bene così. Vabbè. Avete spopolato qua dentro. Gile è stato entusiasta, il nostro fotografo per l'occasione. Noi siamo molto felici e vi ringraziamo tantissimo anche per averci dato l'opportunità, la possibilità di venire qui e proporre. Insomma, poi una cosa da sottolineare, cari ascoltatori, sottolineiamo che loro hanno costruito il live appositamente acustico per noi, e questo è importante. Esatto, sì. Nel salotto di Antonio. Abbiamo fatto una sorta di questo è carino, di home session. Abbiamo fatto delle prove in casa da Antonio, il nostro bassista, per cercare di ricostruire un po' l'ambiente radiofonico, quindi avere anche un studio piccolo, una stanza piccola. Esatto, sì. Esatto, esattamente. Bravi, come avete collegato la tastiera? Era nel Dolby Surround del televisore. Sì. Dopo, ma la prima prova ho staccato le casse del computer. Classiche, quelle che hanno attaccate col cavettino. Die. Lui usciva miseramente. Il Rocco con un amplificatore a 10 watt, mio di 20 anni fa. E lui e Matteo che cantava all'aria aperta. Chiaramente. Col cane addormentato lì di fianco al divano. Bella situazione. Respirava a te. E poi non è assolutamente facile, perché comunque questi sono tutti pezzi che, cioè, in versione elettrica sono completamente l'opposto. Tutti synth grossi, qua pianoforte molto sottile. E sai mai se dalla registrazione che vediamo poi salti fuori qualcosa per un, un live? Sarebbe una cosa molto carina. Rarities, queste cose qui. Idea a casa vostra. Bello! L'idea domicilio. 9,90. A proposito del discorso di suonare a casa, questo capita spesso e volentieri, spesso, soprattutto negli Stati Uniti, ci sono dei musicisti che vanno appositamente a suonare tipo a casa. Tipo festa di compleanno. Esatto, vanno a suonare a casa. È una cosa molto bella, secondo me. Ma suonano anche in cam, cose del genere. Esatto, è vero. Ma va bene, comunque è scontato dire che fuori dall'Italia alla fine c'è un mondo musicale diverso. Com'è secondo te, Matteo, l'Italia è un po' chiusa? L'Italia è la mia impressione. È una mia personalissima impressione, opinione, che è pronto per custodista a dire qualcosa. È pronto No, è meglio che no, è meglio che noi non diciamo niente. Non è questione di aggredire meno le cose. Il problema è che ci sono delle regole, dei canoni in Italia che probabilmente all'estero non esistono. Cioè, in Inghilterra convivono e coesistono svariate band che fanno lo stesso genere, cosa che qua in Italia è praticamente impossibile. Quasi impossibile. Quindi in Inghilterra suoni ovunque. Sì. Ci sono mille locali, puoi entrare in un locale, puoi suonare. Cioè, credo un'altra cultura. Assolutamente. In Italia c'è poca meritocrazia per i gruppi che suonano bene, nel senso che suonano sempre quelli con cose proprie, che facciano bene, che facciano male, suonano sempre quelli. Sì, la nostra non è una polemica, il nostro, noi alla fine amiamo il nostro paese, certo. E speriamo di riuscire ad arrivare dove credo che questo gruppo meriti, perché cioè, effettivamente sono tanti anni che lavoriamo a questo progetto. E si sente che sono tanti anni che lavorate. Sì, sì, no, ma io dicevo all'inizio che abbiamo cominciato a suonare che eravamo veramente molto giovani, cioè avevamo 16 anni. Diciamo che abbiamo vinto Rock Target Italia, che avevamo ancora citiamolo questo, minorenni. Citiamolo. 17-18 anni. Che vince il Rock Target Italia sì, a essere minorenni. Nel 98. Cosa da poco. Noi abbiamo fatto era la nostra prima edizione e anche l'ultima, perché appunto alla prima edizione abbiamo vinto. E, e prima te ti riferivi ai 24 Grana. Esatto. E infatti è stato lì la finale a Milano di Rock Target Italia. Abbiamo suonato con Tiro Mancino, 24 Grana. C'è cioè, la sintesi di Carmen Consoli. Sì, la sintesi Carmen Consoli, no, quella l'abbiamo fatta in piazza. 24 Grana e Tiro Mancino. Gli Africa United, mi sa. No, no, no. Gli Africa United non c'erano. Non c'erano ancora. Manchester. Qual è il Manchester? Sì. Beh, tu parlavate di Inghilterra. Siete stati in Inghilterra? Sono. No, diciamo che per quel che mi riguarda, personalmente, band, sì, esatto. Il resto della band la pensa in altri modi. Hanno altri gusti. Io ho dei gusti piuttosto British. Quindi mi piace molto. Ma i gusti British, fra 10 minuti. Con i gusti British, diciamo, okay, okay. Ci siamo fra 10 minuti. Okay. Per i gusti British, ritornando al discorso di prima, musicalmente era un pezzo molto interessante, perché fare dal vivo praticamente l'avete reinventato anche questo. Sì, non è mica semplice. L'abbiamo rimodellato e abbiamo proposto appunto è stato un piacere, perché a noi piace tantissimo anche giocare con le nostre canzoni. Poi sono canzoni che noi facciamo da tanto tempo, quindi quando mettiamo mano i pezzi molto. Ci divertiamo anche un po' a cambiare le carte in tavola, cioè parla dell'acustico? Sì, ovvio. E di quello che abbiamo proposto. Vi divertite, hai detto tutto. Sì, esatto. Sì, sì. Vabbè, io vorrei fare questo di mestiere nella vita, quindi vorrei sudare come prima abbiamo citato tutti i giorni in questa maniera. Noi il nostro spettacolo in acustico abbiamo rivisitato dei pezzi in vari generi, quindi tocchiamo il bossa nova. Nella maniera in cui riusciamo a farlo, ovviamente. Abbiamo scomodato i Cure. Abbiamo fuso proprio in alcuni pezzi, non tutti, perché delle cover con i nostri brani, quindi magari degli intro di Ale che può ricordare un pezzo, Cure. Oppure i Cure, sì. Il singolo Maroon 5. E ci siamo i Maroon 5 con Deep Love, che l'abbiamo incastrato, fuso con il singolo di Primo, ogni cosa intorno, secondo me rende molto. Bisogna sentirle queste cose. Esatto. Sì. Ma è più interessante per chi ci ascolta e conosce i nostri pezzi, è interessante vedere come questi pezzi vengono comunque. No, ma infatti è molto interessante dal vivo. Io credo che abbia azzeccato l'aggettivo è siamo divertiti, è divertente. Esatto, quindi non parlo più bene così. Beh, siamo divertiti. Sì, io sono d'accordo. È che oggi stasera volevamo proporre bene o male i pezzi come sono nati come sono costruiti, perché là sono snaturati. Ma noi in quell'acustico noi veramente ci divertiamo moltissimo, noi per primi. Poi si diverte anche il pubblico, comunque. Sì, appunto, si diverte il pubblico. Sì, può essere un rischio, però è un rischio che voi correte, continuate a correre, è un rischio positivo, anche vincente. Sono nate delle cubiste dopo alcuni acustici degli Noi siamo forse uno dei pochi acustici che suoniamo unplugged, dove la gente balla sui tavoli. È un acustico un po' tirato. Sì, dopo due o tre bottiglie di vino. Un acustico, come si dice, provocato, possiamo dire. Quindi. Sì, abbastanza. Ok, adesso sono le 22:50. Cosa abbiamo in scaletta, Sergio? Che cosa abbiamo? La traccia 8 del nuovo disco. Parliamo un momento di questo classico della mia età, perché ho una certa età. Ma che freddo fa? Di Nada, nel Festival di Sanremo, il primo grande successo di Nada. Come mai questa rivisitazione in chiave assolutamente vostra di un classico di Battoni? Il pezzo è un pezzo bellissimo. Tanti gruppi si sono ispirati, gruppi li hanno fatti. Beh, adesso a pescare nel passato, i brani del passato, soprattutto 60-70, è molto di moda, anche perché spesso ci sono cose più interessanti negli anni 60 e 70 che non adesso, dici. Esatto, sì. E poi ci sono canzoni che hanno fatto la storia e che comunque fa piacere riascoltare e riproporre in chiavi differenti, tipo quella che abbiamo proposto noi, che è una chiave rock wave. E qui Andy ci ha messo tanto del suo. Che difficoltà c'è stata? Perché Ma che freddo fa? O sono un altro pezzo? No, beh, noi Ma che freddo fa l'abbiamo scelta parecchi anni fa. E abbiamo scelto quella forse perché in quel momento era quella che si avvicinava di più nelle nostre menti, anche a livello di arrangiamenti poi futuri, quelli che avremmo fatto dopo, a questo rock, a questa chiave di volta, sì, a questo rock wave di cui ti parlavo, che la identifica. Sì, no? Però la cosa particolare è che noi l'avevamo inventata e convinti, proprio eravamo soddisfatti del fatto che l'avessimo rivisitata sotto forma anche più lenta, era dimezzato il tempo. Ho capito. Sì. Sì, ma eravamo proprio compiaciuti di come l'avevamo fatto noi. Poi arriva Andy e l'ha stravolto tutto. Accelerata. E in effetti abbiamo detto: è più cavolo, è più bella fatta così. Insomma, bisogna sentirla. Esatto. Assolutamente. Eccola qui, Blu Radio Veneto. Rock Wave, l'onda del rock. Vedi, Sergio, come si fa a rivisitare un classico sanremese, perché è proprio classico dei classici. Assolutamente. Fatto, rivisitato dagli Idea. In maniera intelligente. In maniera intelligente assieme ad Andy. Sì, sì, vabbè, Andy qua, come dicevo poco fa, è andato alla grande, ci ha messo tanto. Ci ha messo tanto. Carta bianca. Carta bianca, cioè, giustamente tu dicevi, era molto lenta e poi l'ha dato il propulsore. Sì, sì, sì. Non era lenta, era... No, era cadenzata. Cadenzata, era tipo la metà... Però bella aggressiva, carica, e lui ci ha dato questa ventata wave. È molto wave, molto wave. Sì, sì, sì. Molto che poi wave. Questa in versione acustica diventa tipo anni 20, anni 30. Ah, è una polca praticamente. Sì, sì. Eh beh, qualche accenno. Film muto in bianco e nero. Sì, sì, fate. Qualche accenno, dai. Un accenno? La vuoi in versione acustica o in versione folk nostro acustico? Una versione vostra. Fai quella. Questi anni 20. Versione film muto in bianco e nero, dai. Va bene. Film muto in bianco e nero. Charlie Chaplin. Sì, vai. D'inverno il sole stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Cazzo mi hai chiuso, hai strappato dal mio viso quel sorriso che non ritornerà. Idea a Blu Radio, gli Idea a Blu Radio Veneto in questa serata di mercoledì. Bravi, bravi, bravi. Veramente bravi. Avete fatto una versione spumeggiante, possiamo dire. Sì, ma che sì, freddo fa. Sì. Mai provata comunque. Mai provata. È bello, è bello della diretta. Allora, sono le 23, mancano pochi secondi. Come e adesso? E adesso c'è qualcosa interessante, vero Sergio? Sono cavolacci a Marari. Esatto. Nel senso. Spiega. Sì, facciamo il solito giochetto di trovare, di cercare, di pensare alcuni dischi da portare su un'isola deserta. Ne scegliamo tre. Siete in 5 per 3, 15. Questa sì, è la media. Una regola importantissima, non si può copiare. Vuole porta CD. Ci vuole il porta CD, esattamente. Chi tocca? Chi tocca? Comincia il nostro Fender. Comincio io. Comincio io così, o rubo qualche album subito, ma secondo me tipo un paio o uno sicuramente loro non posso rubarlo a loro, perché io con loro sono entrato nel 2006, anche se li conosco da quando abbiamo 5 anni. Poi dopo le strade, abbiamo cominciato a suonare insieme che ne avevamo 13-14 e poi le strade si sono unite più avanti, quindi il destino qua si è comportato bene. Qua. Quindi io sì, qua. Alcune volte no, alcune volte il destino gioca a brutti scherzi. No, questo invece è uno scherzo positivo. I miei, parto con i miei. sicuramente l'album non posso descriverlo, cioè descrivo l'artista se posso. Bon Jovi è uno perché mi ricorda la mia adolescenza. Io vengo un po' da quel rock anni 80, anni 90, a soli di chitarra, quello mi è sempre piaciuto. Poi devo dire il primo di Elisa. Perché il primo di Elisa? Il primo di Elisa perché? Perché senti sotto che c'è Bon Jovi. Bad Medicine, grandissimo. Quante volte l'ho cantata, sentita in macchina, alzato il volume a bomba. Anche se non è la mia preferita. Comunque, il primo di Elisa, perché quando è uscita, secondo me, ha spaccato Pipe tutto. And Flowers. Sì, era, a parte tutto l'album era stupendo. Sì. Ma poi con Labyrinth, quando l'ho sentita in radio, io avevo la pelle d'oca. Mamma mia. Ho detto finalmente un pezzo. Perché io quando sento un bel pezzo che mi fa emozionare, a me viene da alzare lo stereo. È la prima cosa. Pipes and Flowers. Questo è Labyrinth. Finché l'abbiamo. Sei reattivo. È avanti 3 minuti rispetto a quello che stiamo facendo. C'è un po' di latenza. No. E poi, ma è l'ultimo potrei dire, tanti italiani. Ma lo sa già lui, ormai. Cioè, ok, allora l'ha già messa pure su. Come? Guarda, l'ultimo non lo so, però sicuramente loro non lo diranno mai. Uno degli ultimi di Morandi, a me è piaciuto da Dio. I testi, le musiche, io sono molto, sono molto italiano rispetto a loro. Che, uno degli ultimi moderni, che Solo chi si ama veramente. A me ha fatto emozionare, ogni tanto me lo ascolto in macchina, hai dei testi bellissimi anche su Mohamed Ali. Questi sono i miei 3 dischi. E sicuramente Morandi non l'ho rubato a nessuno di voi. Io volevo dire Morandi. Morandi è una scelta. Posso dirti una cosa, Sergio lo sa, è la prima volta in 10 anni, penso, che qualcuno cita Morandi. Morandi ultimo. Si poteva citare, forse i nostalgici come me potevano citare il Morandi di Se perdo anche te, il Morandi degli anni 60. No, anche degli anni 80. O degli anni 80. Sì, ecco. Sì. Il Morandi della ricostruzione, del ritorno al successo. Tu hai scelto uno degli ultimi dischi, un disco fatto da molti cantautori importanti, tipo Pacifico, eccetera. Sì, poi ha collaborato con Gaetano Curelli, Stadio e altri, ovviamente. Però avendolo sentito anche dal vivo, oppure dalle trasmissioni televisive che ha fatto, sia come conduttore, ma ci buttava sempre dentro delle sue performance, mi piace moltissimo la voce che ha, come la usa, ed è intonatissimo. Mi piace. Basta, ho finito. Tocca al nostro percussionista. Sì. Non sei addormentato. No, sì. No, ma se si vuole appoggiate il muro. Se aspettavi ancora un minuto suonava la sveglia. Ma come? Allora, io sono un po' in controtendenza comunque, nel senso, rispetto ai gusti. Bjork? No, beh, però ci siamo. Non mi offendo. No, beh, controtendenza. Massive Attack. Esatto. Partirei col primo album dei Massive Attack, anzi non è il primo. No. Che è Mezzanine, che è quello che mi piace. Che è successo mondiale. Esatto, è quello dove comunque sono passati la ribalta ed è un disco pieno di sonorità così cattivanti e nuove a quell'epoca che era difficile non notarlo. Ecco. Questo abbiamo. Abbiamo questa, vabbè, sono sempre loro. Io però non ce l'ho in cuffia. È un finished sympathy. Adesso ti metto in difficoltà perché non so se tu avrai. Qui. il primo album degli A Perfect Circle. No, io non provo. Mica, no. Questo mi sa proviamo, che non proviamo. Sì, due brani. Abbiamo due brani. Immagine e Passive. Non so. L'inglese. Quelli sono. Però non è il primo disco. È il terzo disco. Esatto. Va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Hai scelto. Scelto il primo. Sì, disco. Sì, non lo so, te non puoi sentire in questo momento. Ah, non sento, io non sento, ok, va bene. E il terzo disco che in un certo senso mi ha cambiato la vita è il primo disco di un gruppo italiano che si chiamano Idea, che nel 2003 perché no? Sono è usciti giusto? E noi siamo passati da suonare comunque nel nostro circo, a Parma, fuori Parma, così, siamo passati in uno studio di prima classe a suonare un album. E in poco tempo abbiamo fatto anche un video girato da Lorenzo Vignolo, che è appunto del primo singolo Fermo Immagine, e questo è stato un po' un momento che ha effettivamente a me, come agli altri miei compagni, ha cambiato un po' la vita, sì, cioè, perché da lì siamo passati, abbiamo fatto un salto di qualità, esatto, esatto. Anche perché allora eravamo sotto un'etichetta molto forte, la Zomba Record, in Italia con Jive Electro, e quindi un'etichetta che tra l'altro annoverava artisti di calibro internazionale. C'era Justin Timberlake, che era certo, appena uscito, c'era, in America c'era Santana, insomma, c'è gente molto quotata, esatto, quindi, quindi era un grande onore per voi, esatto, esatto. Poi eravamo piccoli, eravamo veramente piccoli. A Federico è rimasto nel cuore il live con Jamiroquai a Nizza, sì. Avete suonato con Jamiroquai a Nizza? Abbiamo fatto il Nizza Jazz Festival, abbiamo suonato, abbiamo avuto la fortuna di suonare in un altro palco, però il festival era lo stesso. Beh, appena prima, perché noi abbiamo finito di suonare e ha cominciato Jamiroquai. A proposito, al di là delle Ferrari, come suona Jamiroquai? Vabbè, ma lui... sono delle macchine. A parte essere delle macchine, ma lui, secondo me, è mostruoso. Il bassista è allucinante, ma lui... Ne prendi uno a caso di loro, sono un po'... Ma lui è una macchina, cioè lui è un robot. Cantare e ballare così. Sì, la cosa più interessante è stato vederlo scendere dalla limousine, luglio. Era con la pelliccia. 40 gradi. Pelliccia. Cilindro in testa, occhiale, quelli tipo i ciclisti, sì, rossi, neri, come si chiamano? Mascherine. Ma c'ha la pelliccia refrigerata, c'è qualcosa. Aveva un frigo nel cilindro. Tu. Tira fuori le Coca-Cola. Appunto. Però una perfezione totale, sì, un professionismo incredibile. Lì... Comunque l'anno dopo abbiamo suonato con Peter Gabriel. Sì, con Peter Gabriel. Sempre al Nizza. Secondo episodio, con Peter Gabriel com'è stata? Com'è stata l'emozione? Beh, l'emozione più grande lì è stata doveva fare l'intervento, a parte che venivamo da... A parte che siamo scappati perché dovevamo andare a Pordenone a divolare. Avevamo 5 date attaccate in quel periodo lì, quindi abbiamo fatto Milano, Bologna, Pordenone, Nizza. No, Nizza, Pordenone. Cioè, abbiamo fatto delle date... Nizza, Pordenone è molto scomoda. Nizza, Pordenone è stata scomoda, però quando l'emozione più grande è stata dover fare essere intervistati con il traduttore francese di fianco che traduceva quello, quindi ero più incuriosito da quello che traduceva lui, da come lui si poneva, che da quello che dicevo io. E di fianco a me, sulla sedia di fianco, all'epoca c'era Bennato, perché aveva fatto anche lui, aveva partecipato anche Bennato alla Nizza. Sì, no, ma noi eravamo degli sbarbati, noi eravamo dei giovanissimi lì, che poi abbiamo rincontrato tutti nel locale famoso dove tutti c'hanno delle jam session di tutti questi artisti. Vabbè. Da Cliff, sì, che era un albergo di Nizza, nel locale più VIP di Nizza, e noi siamo capitati lì perché avevamo questo pass, e detto, andiamo a vedere cosa succede. E mai più. Questi artisti che suonavano, due cocker room, 20.000 lire all'epoca, erano già in euro. Erano anche 15. Erano già in euro. Sì, allora erano 20 euro due cocker room. Infatti te hai detto te lo offro io. Offro io. Fatto lo sborone. Ma non l'ho offerto, voi l'ho offerto al nostro vecchio chitarrista Nicola all'epoca. Però avete visto chi avete visto da dentro? Siete di calibro mondiale. Sì, no, beh, quello sì, assolutamente. Quello assolutamente è stata un'esperienza bellissima. Il passato è passato, siamo tornati. Sì, certo. E certo. Adesso non ce ne vogliamo più andare. Quindi... Si può riprendere che si preparino. Certo, perché no? Si può ritornare a Nizza, si può ritornare a Nizza e si può aprire lo stesso a certi grossi nomi. Vedremo. Adesso lavoriamo su quello che è il nostro progetto e quello che abbiamo intenzione di fare. Dei progetti, i tuoi dischi, Matteo. I miei tre dischi sono indubbiamente Violator dei Depeche Mode. Quello è un tuo grande amore musicale. Sì, i Depeche sono un mio grande amore musicale, intanto perché io sono un grande appassionato degli anni 80, soprattutto dell'elettronica 80. Anche lui, Ecco. Anche lui. Anche lui ama i Depeche. Anche Ale è un grande appassionato. Forse dire anche lui, poi sembra che io sappia chissà che io non so. Niente. Poco di sarai tutto, ma in pratica niente. Mi sorprenderai, Ale. Ti sorprendo. Comunque, Violator è il disco di Depeche Mode perché ha delle sonorità splendide, poi forse è il disco che un po' ha segnato la mia vita sotto certi punti di vista, quindi Violator. Come mai secondo te, Matteo, i Depeche sono ancora così amati? Perché i Depeche, a differenza di molti artisti di quel periodo, tendono ad evolversi e ad essere sempre in linea con quello che loro sono stessi. Sì, loro. E poi comunque sono sempre in linea con quello che sono i tempi. Quindi non sbagliano mai neanche nella scelta dei suoni, nella scelta nel loro caso dei sintetizzatori, che poi lì comunque alla fine una mente. Martin Gore indubbiamente, però senza quella voce lì di Dave, certo. Dave Gunn, Dave Gunn e Dave Gunn, cioè. Esattamente. Due marchi di fabbrica. Assolutamente. Sì, sì, sì. E Grace di Jeff Buckley, perché io ho incominciato con Jeff Buckley a cantare. Sai quanti musicisti che sono venuti qua, sono una decina d'anni, regolarmente, vero Sergio? Sì, sì, citano sì, sì. regolarmente Jeff Buckley. Ma perché è copiato. Ma soprattutto... Ma per me... per me è stata una fase di crescita notevole, soprattutto nei cantati e nella stesura dei testi, cioè... E poi la storia dice che il disco di Jeff Buckley, Grace, è stato un mezzo insuccesso per la casa discografica che aveva investito tanto. Però con il tempo si è allargato. Perché si è allargato? Perché lui ha fatto quella versione meravigliosa dell'Alleluia di Cohen. Però non è solo quello. Poi dopo chi è appassionato di Buckley ha ascoltato anche quello che era Skitches for My Sweetheart the Drunk, disco postumo. Esattamente. E poi è quello dal vivo iniziale. Che quello c'era Live at Zini prima, però Skitches for My Sweetheart the Drunk è un disco che secondo me l'avrebbe lanciato nell'Olimpo. Secondo me sì. Perché Grace andava sempre in crescendo. È sempre stato comunque un lavoro che è vero che all'inizio non ha venduto tantissimo, dopo cominciava a vendere, cominciava a crescere il suo successo, eccetera. Purtroppo Mississippi ha deciso che il Wolf River, in questo caso, che è un affluente micidiale del Mississippi. Mississippi ha deciso così, ha deciso, non si è mai capito chi abbia deciso. Sì, esatto. Dopo nascono leggende, perché i miti si condiscono con la leggenda, ma nel suo caso rimane una voce incredibile e tutta la poesia di quello che ha scritto, perché al di là delle svariate cover che ha riarrangiato, ci sono anche delle poesie pure. Aveva un grande DNA, però. Sì, Tim Buckley, suo papà, ha segnato anche lui un percorso. Però non sono mai stato un grande appassionato di Tim Buckley. Io sì. No, è un disco, dovrebbe essere Letters to LA. Io ne ho tanti di Tim Buckley. Tim Buckley ha tante caratteristiche proprie. Sì. La capacità, la voce, ecco, la voce di Tim Buckley è magica in alcuni momenti. Assolutamente. Sì, sì, sì, no, ma assolutamente, questo fuori discussione. È stato un talento assoluto anche suo padre. Molto sfortunato come suo figlio. Esatto, purtroppo. Entrambi hanno scelto. Più suo figlio. Sì, più suo figlio, esattamente. E il terzo disco che vado a scegliere è Showbiz dei Muse, perché hanno portato hanno decisamente rivoluzionato un determinato stile di musica, che appunto è anche quello rock, classico, pop rock, wave, classico. Neoclassico. Neoclassico. Dopo cominciava il discorso neoclassico, ma Showbiz, Musical Museum, era già una canzone che andava contro tendenza, soprattutto in quel periodo. Certo, certo. Quindi no, lo relaziono subito Showbiz a Musical Museum, perché è stato comunque il primo single di quel disco. Mi ricordo che rimasi proprio allibito, mi interrogavo dicendo, cavoli, che mix eccesso di... E cosa ne pensi dell'ultimo disco? È stato criticato perché loro sono diventati oggetto di massa. E la gente gli stimatori, i critici li hanno un po'... No, è un disco da oggetto di massa, da grande successo. Intanto se lo possono permettere. Indubbiamente sì. Arrivi a un certo punto che te la giochi come vuoi. E poi è probabile, c'è stata questa evoluzione neoclassica, ed è veramente stata ostentata, perché ormai sono barocchi. Sono barocchi. Infatti, infatti. Quindi tu, quando sei sull'isola deserta, ti porti questi tre dischi mentre stai aprendo la tua noce di cocco. Sì, con le unghie. Ti metti sui tuoi Muse, e te la apri con Wilson che ti guarda. Wilson! No, vabbè, a parte gli scherzi. Sì, probabilmente me la godrai così. L'ultimo singolo, infatti, che sta andando in radio adesso, è bellissimo, però se non avessi già ascoltato tutto ciò che hanno fatto prima. Cioè, uguale. No, ma sono d'accordo. Calcoliamo che dopo ci sono delle forzature discografiche, soprattutto. Sì, cioè. Sono delle potenze, cioè lì se non sei sotto pressione, ogni tre anni devi sfornare un disco, se no sparisci. Quindi lì c'è un altro discorso. Però hai ragione. Sì. Io ho finito. Tocca a te, Rocco. Allora, questo. Ok. I Cure in generale, come per Antonio c'era Bon Jovi, i Cure. Un altro punto cardine. Sì, sono una delle prime cose che ho imparato ad apprezzare. Robby Smith ha fatto sempre tutto. Non un disco in particolare, ma venivo da una compilation fatta da una cugina grande, quindi ascoltavo quella lì tipo 5-6 ore tutti i giorni, non so, è una roba. Mi aveva coinvolto molto. Quello è il motivo. Poi Adrenalize dei Def Leppard. Come mai Def Leppard? Che non è un gruppo sì amato, ma più amato negli Stati Uniti che no. E in Europa sono stati apprezzati molto poco, sì, esattamente. Non per il merito che avevano. Valevano molto di più. Ha fatto delle canzoni splendide. Aveva un sacco di dischi bellissimi, sì. Molto meglio di tanti altri gruppi che poi sono arrivati al bel muro di suono, Muro di suono, arrangiamenti bellissimi, idee originali, voce bella, tante cose. Animal è un CD bellissimo dei Def Leppard. Mysteria. Scusami, sì, Hysteria. Poi l'ultimo, beh, è una scelta un po' diversa, è un disco mediocre, No Prayer for the Dying degli Iron Maiden, perché è stato il primo, la cassetta, è stata la prima cassetta che ho comprato uscendo di casa un pomeriggio a 10 anni. Ho preso l'autobus, dato negozi di musica quando esistevano ancora. No Prayer for the Dying è bello, disco mediocre. Disco mediocre, però è per un discone, proprio per il fatto che è stato il mio primo acquisto a 10 anni. E quindi tu quando sarai sull'isola con Wilson. E non avrai il mangiacassette. No, ci sarà solo l'ingresso USB nella noce di cocco e io ti ascolterai un disco mediocre, però godrai sì, tanto. Okay. Al tramonto della tua iso. Con Wilson che se ne va. Tocca a te. Allora, io scelgo tre generi completamente diversi, sì, ma che viaggiano sulla stessa, diciamo, frequenza, che si chiama melodia. Ah, ok. Io ho bisogno di tanta melodia. Sei tu che hai coniato la musica elettronica fatta di mille note. Hai ragione. Io ciò che non è melodico non riesco a sentirlo. Quindi, dimmi. Avendo studiato musica classica al piano per una vita, amo il romanticismo, quindi 800. Quindi io non so se hai qualcosa di classico. Chopin o Beethoven, tutto ciò che esistente. Sì. Primo. Secondo, come gli altri, per me gli anni 80 sono il massimo della melodia della musica. Allora cosa scegli degli anni 80? Sì, che poi gli anni 80, che vabbè, loro sono partiti prima, però i Queen in assoluto a livello di melodia sono il massimo. E c'è una canzone in particolare che io amo, è These Are The Days Of My Life, che è bellissima. È l'ultimo album. E poi chiudo con, ovviamente suonando i synth, io ho scoperto un gruppo tedesco elettronico, si chiamano VNV Nation. Lo conosco quello là. Sono un gruppo elettronico tedesco che vanno, insomma, un casino. Loro hanno una melodia incredibile in tutti i brani, cioè i ritornelli belli. E io, grazie a loro, ho scoperto i suoni, bei suoni caldi synth, che sono tutti, cioè provengono tutti dalla Germania comunque, cioè la scuola elettronica tedesca. Ma loro sono svedesi, sono un po' più freddi. Anche i tedeschi sono freddi, però a livello di suoni synth, di tastiere, sono i maestri sono loro, indiscussamente. Io ricordo molto che bravo. Il synth l'ho trovato con Raff e Florian, che erano gli anticipatori di Kraftwerk. Anche loro sono tedeschi. Raff e Florian. Sì, assolutamente. Esattamente. Ok, abbiamo finito, Sergio, questa carrellata. Noi torniamo dall'isola deserta adesso. Allora, visto che uno torna dall'isola deserta, cosa fa? Suona? Suoniamo. Si suona allora. Sì, perché stiamo asciugando un po'. Quindi suoniamo. Gira il microfono, sì, ok. Sposta il microfono così. Vai così. Sì. Senza fine, che però non è il senza fine rivisitato. Di Paoli. Ma è il nostro senza fine. Esatto. Pensando a quanto sia difficile lasciarti uscire come foglie sollevate da questo vento timido di fine estate. Fine estate. Di fine estate. Fine estate. E forse ti ho già persa tra queste mie parole. Ora che le ho scritte vorrei non pensarti più. Forse non ti ho persa e questo è l'importante. Le mie parole tagliano e questo ricordo sei tu. Mentre scriverò di te in questo giorno senza fine, pensando a quanto sia difficile lasciarti uscire mentre parlano di te. Anche le foglie sollevate da questo vento timido di fine estate. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. 23-22 minuti, gli Idea qui a Blu Radio Veneto all'interno di Rock Wave Live del mercoledì. Grande pezzo anche questo, sì, senza fine. Io dovevo sottolineare una cosa. Ale, prima Alessandro ha parlato, ha detto della melodia. Qua c'è molta melodia e la melodia è la base di questo pezzo, anche gli altri, ma questa fortissimamente melodico, nel senso positivo del termine. Ed è per questo che ci sono le mie mani. L'idea del pezzo come è nata? Spiega. Beh, questa è bella, qua che bella, indietro, sì, bella. Sai che non mi ricordo bene questo pezzo. Beh, è nata più che altro con sempre delle piccole intenzioni. Adesso non mi ricordo chi di noi avesse comunque provato mettere giù qualcosina. Comunque è nata quel giorno in sala e mi ricordo che avevamo fatto anche lì un mix di quello che era l'idea principale, che non ricordo, ripeto, chi l'avesse portato. Forse Nicola, esatto, il nostro vecchio chitarrista aveva portato quest'idea. E poi dopo ognuno di noi aveva condito la canzone come meglio credeva. Poi dopo è stata arrangiata, poi è stata sistemata da Andy. Poi dopo sono nati i testi, sono stati corretti dei testi. Ma poi, a proposito io parlo in questo momento, l'ho sentita in questo momento qua, e da un certo il cambiamento è sempre in una certa direzione. Il cambiamento però stavolta che pone alle basi, al centro dell'universo musicale, in modo accattivante di riprendere la gente, di circolare, un pezzo circolare che prende immediatamente dall'inizio alla fine, è circolare. Senza fine è una canzone a livello di stesura, proprio di arrangiamenti, come tutte le canzoni di questo disco, alle quali comunque abbiamo lavorato tanto, nel senso che Andy ha voluto costruire, noi abbiamo voluto sistemarlo insieme a lui, sono stati sistemati i suoni, sono state sistemate anche quelle che erano addirittura delle metriche, quindi anche a livello vocale. Spiegati un momento. Ma c'è stato qualcosa di testi, adesso qui non ricordo se qualcosa effettivamente è stato corretto o meno, comunque qualcosa nel testo è stato sistemato. Che altro per la metrica, di tentare determinate parole per non mangiarsi alcune frasi. Quindi. Esatto. Perché esatto. Bisogna limitare, esatto. Cercare di cadenzare il discorso. Assolutamente sì, ovviamente. Che non è semplice, no, non è mica. E poi purtroppo non siamo tutti geni come potrebbe essere. Soprattutto i primi dischi, io mi ricordo i primi Blu Vertigo che incastravano delle metriche impossibili o addirittura Battiato. Lui è stato un maestro nel non solo umanamente, spiritualmente, ma soprattutto anche a livello musicale. Ci sono alcuni artisti, che ovviamente non faccio il nome, che cambiano gli accenti per cercare di... Che Elio e le storie tese, anche loro hanno il vizio di far stare... Cantano più veloci, siamo a posto. O anche aprono le vocali, chiudono le vocali. Sì, no, beh, comunque sì, in qualche modo. Pur di, sì. Sì, però, insomma, c'è chi l'ha fatto davvero molto bene. Beh, io ascoltavo poco tempo fa uno dei primi dischi di Battiato, se non mi ricordo. Qual era? Non mi ricordo. Mi ricordo che però ho ascoltato... adesso non so in quale disco era. Fetus, Pollution, sulle corde di Aries. Un attimo, era... La canzone che ho ascoltato era Vorrei vederti danzare. No, è del secondo, è il teatro dopo Bandiera Bianca. Dopo Bandiera Bianca. Sì. E ho ascoltato quella canzone, e è incredibile. Cioè, al di là della cultura. Che... Beh, al di là, sì, giustamente, al di là della cultura, i testi. È imbarazzante da quanto è acculturato quell'uomo. Esatto, ma come si fa a coincidere i testi di Sgalambro con la musica di Battiato? Non è mica no, non è facilissimo, non è facile, però, insomma... filosofia, poesia, sì, poi di tutto. Sono alla fine, come dire, il collante per quello che può essere la musica, grazie per per quello che può essere poi una musica bella, speciale, un'elettronica così viscerale, così è bello, quella elettronica, no? Ti auguro di non ascoltare mai la versione del brano che hai appena tutti l'abbiamo sentita, la versione dance di Gabri Ponte, mamma mia, inascoltabile, quella, sì. Piace ma molto. C'è una versione famosa di un pezzo di Battiato fatta dai CCCP che era adesso non ricordo qual era, però beh, di fatto dei CCCP, ammetto di essere ignorante, o dai CSI, scusate, era cambia, però è sempre cos'era, Battiato cos'era? È un pezzo fatto di Battiato, sì, fatto sì, di CSI, adesso sì, non ricordo, sì, proprio te lo dico adesso subito. Lo tiriamo fuori, Battiato ha fatto, cioè, l'ho appena visto all'inizio di carriera Battiato, dopo Fetus Pollution sulle corde ari, lui faceva E ti vengo a cercare, ecco, ah beh sì, che bello. Ok sì. È meravigliosa, okay, sì. Cioè è distrutta nella meraviglia, sì, è sì, completamente sì. Diversa, rifatta, ma se tu voi ascoltate il Battiato dopo sulle corde di Aris, dopo il periodo, i primi dischi, Messere il Gladiatore è una facciata sola, con un pezzo solo. Sì. Sì, sì, o sì. Click, molto sperimentale. Lui ha vinto il premio Stockhausen. Sì. Quindi uno che vince il premio Stockhausen, un italiano, dice già tutto della sperimentazione. Poi i soldi li ha fatti, i soldi, il successo l'ha fatto con Bandiera Bianca, ma quello è un altro palimari. Assolutamente. No, beh, che sia un genio assoluto fuori discussione, cioè e io rimango sempre molto. E il discorso vostro della metrica, anche CCCP comunque CCCP, spara Iuri, mamma mia, cioè, anche no, anche CCCP mi ricordo delle cose molto molto molto graziose. Poi io... sappiamo che cosa fa il Vate, sì, sì, sì. Sparatemi, ormai... sparatemi, però quando io parlavo di melodia, dimmi. Lo so che adesso mi linciate però i CCCP sono dei geni assoluti, però sì. Di melodia zero. Ma non è vero, c'era la melodia lo stesso. È un altro tipo, è un altro tipo di melodia. C'era lo stesso. Se tu senti gli ultimi, i CSI, sì, è vero. C'è la melodia. Spara. Beh, se ascolti Annarella dei CCCP, cioè è molto melodica. Da Codemondo in poi. Codemondo, sì, esattamente. Sì, cioè, ma la melodia esiste. È una melodia rumorista. Posso adesso non chiedeteci di farla perché non l'abbiamo preparata. Ma noi live elettrico facciamo Forma e Sostanza dei CS, che erano già CSI. Esatto, erano già CSI. Hanno lasciato la traccia, una traccia forte nonostante tutto. Sì, no, vabbè, assolutamente. Parlando di metrica, di giocare sulla metrica. Però quelli, secondo me, sono personaggi. Parlo di Giovanni Lindo. Sì, Lindo, chiamiamo il Vate. Parlo di Giovanni Lindo. Sono personaggi talmente. Non li accosta Battiato, perché Battiato è veramente molto, molto in alto. Ma c'è stato un progetto fra di loro. Però, sì. Esatto. Però sono molto vicino, estemporanei. Hanno questa capacità di trasmettere. Anche senza dire nulla, anche tacendo, anche vedendo solo il personaggio in sé. È inquietante, poi, Lindo Ferretti. Sì, è inquietante. Vabbè, poi dopo. Sì, poi ha avuto i suoi problemi. Esatto. Certo. L'ho letto, tra l'altro, il suo libro, quello del suo cambiamento, della sua trasformazione. Sì, netta proprio. Sì. L'ho letto. Sì, netta. Esatto. Vabbè, comunque. Al di là della politica, ognuno, sì. Ognuno sceglie quello che è meglio che è. Ma sì. Alla fine. Adesso cosa scegliamo noi? Abbiamo 23:30, cosa abbiamo ancora quasi in scaletta, sì o no? Sì, dovrebbe esserci qualche canzone ancora. C'era una traccia, quella della chiavetta. Esatto, l'attrice. L'attrice. Sì, l'attrice, faccio un brevissimo preambolo. Sì. L'attrice è una canzone che doveva fare parte di questo album, okay. Che è stata... Ma effettivamente fa parte di questo disco, però... È su solo ed esclusivamente su iTunes. Ah, ho capito. Questa è una traccia omaggio, regalo che abbiamo voluto inserire. Dai fan. Esatto, su iTunes. Quindi l'attrice. Ferma le tue giostre crepano. Il tuo show si è spento ormai. È calato un triste sipario. tutto a pezzi ormai. L'attrice con gli Idea, mi viene da mettere l'H davanti, non so se faccio bene o no. In realtà sarebbe giusto, potrebbe sì. Anche essere Hide, sarebbe la parola giapponese è Hide. Potrebbe essere tante cose. Hide, che è la speranza in giapponese, quindi la scelta del nome Idea arriva da questo, cioè Hide, speranza, o è una sorta di... è qualcosa di speranzoso, Hide. Quindi può essere anche in inglese hide, come nascondere, è vero, qualcosa, è vero, è vero. Bravo, vedo giusto, che giusto. È una gamma. Dai, camarazzo. Come lo possiamo definire questo pezzo musicalmente? È molto non dico abbastanza ricco di suoni, quello sì, volutamente. Sì, ma loro sempre, mi pare. Sì, esatto, ma Rocco diceva, non ti piaceva piaceva forse il missaggio? Diceva. No, il missaggio in cuffia, cioè del era pezzo perfetto. Che sul disco è perfetto. No, lui parlava di live. Di live. Perché sentendo nel disco ha questa base che è proprio rompente, cioè prende, è molto rilevante all'interno del pezzo, quindi la mia idea era quella di... Di dargli un po' più presenza esattamente. Secondo me la potenza vera di questo pezzo è anche perché è semplice. Sì, sicuramente, vabbè, sì, ma è mixato molto bene. È semplice, ma arriva, è diretto. La strofa, che è un po' è giocosa, sembra quasi... Infatti la canzone è uno scherno. Un po' non riesco a trovare la definizione, aiutami. È un po' sempliciotta, un po' burlesca. Mentre invece il ritornello è bello diretto, sparato. Sì, certamente. Poi con la sua voce bella alta là, che tra l'altro è anche difficile da cantare dal vivo, e lui la canta. Come la fai dal vivo? Come la fate dal vivo? La passiamo di 4 toni. No, dal vivo resta così. Devo dire che Matteo ha molti difetti. E fa poveretto, perché ha molti difetti. Fa incazzare spesso. No, scherzo. No, è vero. No, scherzo. Però dal vivo è veramente bravo. Davvero. L'ha dimostrato anche qua. Ho notato stasera tanti cantanti. Vabbè, stasera è anche un po' influenzato. Ho notato tanti cantanti che mi hanno deluso dal vivo. O le abbassano, o le rigirano, o le fanno cantare al pubblico. Perché non hanno voce? Ma non hanno voce, magari il ritornello è troppo alto, perché in studio siamo capaci tutti. Certo. È dal vivo che... Invece lui dal vivo, devo ammettere che tutte le volte mi stupisce, perché è veramente intonato. Ha stupito anche noi stasera. Basta. E per amore per la musica ha smesso di fumare. E questa è una cosa positiva. Io sono 2 anni che non fumo più. Io invece fumo, mi piace. Anch'io, ma anche a me. Allora, alle paglie, allora non facciamo pubblicità. Io non devo cantare, però non diamo un messaggio sbagliato. No, sì. Però è servito. A me è servito tanto, certo. Perché diciamo che hai seguito le ombre del bassista, sì, che era un fumatore accanito da un pacchetto di paglie al giorno di sigarette, di sigarette al giorno. E ha smesso con l'aiuto del libro e la forza e volontà, soprattutto. Alla base deve esserci alla base quella. Tutto. E in effetti gli ho fatto qualche pressione anche un po' psicologica. Dai, smetti, ma guarda che meglio, ti conviene. Al di là della respirazione, non fumando, è un'altra vita. Appunto. È un'altra vita, è vero. Sì, me ne rendo conto. Ci si ammala meno, e non è vero, perché questo è un altro po' di maniche. No, è vero, sono piuttosto cagionevole. Questo me ne rendo però il fumo protegge dall'influenza. Prendo due, cioè il famoso sui pacchetti. Dietro, nella parte nel back del pacchetto. Esatto. Sì, perché muori e quindi non ti puoi più ammalare. Esatto. Qui, perfetto, 23:37. Abbiamo sentito questo pezzo da disco o da chiavetta, è la stessa cosa. Adesso sentiamo qualcosina, non da disco, ma da chiavetta. Sei pronto, Matteo? Sì, pronto? Facciamo La Dimensione, si intitola. Ok, La Dimensione. Bellissimo. Radio Veneto. 23:41 minuti, Maurizio, l'ultima ventina di minuti, appunto, insieme agli Idea. Secondo me questa è una canzone pop, assolutamente pop. Sì, è venuta un po' speed metal, però power metal. Però era una canzone pop. Sì, La Dimensione è una canzone che era nata come La Finestra parecchi anni fa, poi anche questa è stata modellata, riarrangiata, sono stati cambiati titolo e testo in determinati punti, e poi Andy comunque anche qua ha fatto tutto un lavoro egregio. Ma Andy, in soldoni, non ha spogliato i pezzi, li ha solo abbellito. Andy ha fatto proprio un lavoro di vestizione. Di vestizione. Andy ha vestito. Antonio. Sì, però c'è stato un comune accordo tra di noi. Lui non ha invaso completamente il nostro rapporto. È quello importante. Sì, lui ha detto: se permettete, io do un consiglio. Io questa canzone, o questo brano, questo. La vedo così. Lo farei così. Secondo voi? Come va? Alcune. Secondo voi? Ma c'è stata una discussione, c'è stato delle. No, c'è stato un confronto, ma alcune gli è piaciuto anche il nostro confronto, dove ma se invece facessimo così, e lui ha accettato invece la nostra di... è partito, non è un partito preso, no, solo quello che voglio assolutamente io. No, però abbiamo sposato la sua visione dell'album, sì, e quindi lui ha arrangiato questo è uno dei brani che è stato arrangiato parecchio, cioè rispetto alla versione originale, Ponte, i suoni tutti completamente qua. Tutti assolutamente sì, sono stati cambiati parecchi suoni. Poi abbiamo usato un suono che vabbè, cioè appartiene già negli anni che prima parlavamo dei Kraftwerk. Sì, esatto. Ecco, noi c'è una cosa che non abbiamo mai utilizzato però con Andy, è il vocoder. Ah, ho capito. Infatti, perché qua non l'avete mai utilizzato? Perché vabbè, non vi sembrava adatto? Beh, forse. Prima perché non ce l'avevo. Esatto, beh, questo è fondamentale. No, non ce l'avevo, però poi da quando ce l'ho uso praticamente sempre. Anche sì, negli acustici. Sempre. Adesso direi che anche fatto, cioè questa canzone fatta in questo modo è sempre un acustico, eccetera, sì. Da CD. È una canzone quasi dance, se non totalmente dance, quindi strofa un po' più ammorbidita e poi ritorno. Dance no, credo, insomma, però sicuramente la batteria in elevare e la potenza del ritornello, cioè è una canzone completamente diversa, è proprio potente dal disco elettronico. Esattamente. Qui chiaramente in versione acustica, batteria non l'abbiamo. No, sono, no. È dovuto. Beh, versione acustica perché doveva essere così. Esatto. A priori. Esatto. Se è piaciuta, perché di base ha una buona qualità. Ritorniamo al discorso iniziale: se è una bella canzone, chitarra e voce è tutto. Però. Esatto. Volevo solo dirvi una cosa. Oltre a voi e ad Andy, chi ha partecipato effettivamente? Nessun altro al disco? Il fonico, per esempio. Beh, noi abbiamo la fortuna di lavorare con un fonico che è Giuseppe Bisbano, che è il sesto membro del gruppo. Quindi fondamentalmente lui ci segue in tutte le date, vita poi, sì, esatto. È sempre fa parte del gruppo. In studio c'era lui e il disco la prima volta è stato registrato al Frequenze di Monza, quindi siamo stati da Andy per un mese, lo studio di Andy praticamente. Ma diciamo studio casa. Sì, lo studio casa. Ma più che altro il Frequenze. Che Andy ha anche un atelier di quadri. Esatto. Sì, lì abbiamo registrato le voci. Sì. Ma eravamo contornati dalle sue opere. Sì. Ah, sue, cioè suonavamo in mezzo a quadri, in mezzo a qualsiasi cosa. C'era. Anche stoffe lui fa proprio di tutto. Sì, ma, sì, ma sì, fa sì. Anche flipper. Anche flipper. Mucche, c'erano delle mucche in plastica. No, qualsiasi cosa era dipinta da Andy. Eclettico. No, lì abbiamo fatto sintetizzare. In kimono, in kimono. È sempre in kimono. Anche una Vespa degli anni 60. Sì. C'era. Rifatto. No, i videogiochi vintage. Ma sai perché lo so? Perché io qualche anno fa, sì, l'anno scorso, ho sentito un'intervista proprio sua, qui parlava di queste cose, tutti questi oggetti che aveva in casa. Sì, sì. E io lì ho utilizzato un pianoforte vero, suo, a muro, completamente dipinto. Rosa, blu, viola, verde, sì, bellissimo. La sua arte fluo. Sì. Vero. No, lì abbiamo fatto le voci, le sinte, le tastiere, tutto quello che era comunque l'arricchimento, l'abbellimento, eccetera. Però le registrazioni ufficiali sono state fatte al Frequenze Studio, che sono, oltre ad essere le sale prove, sono anche è proprio uno studio discografico, cioè. O no? Posso studio di incisione. Studio di incisione. No, perché sta attento che lui le parole sì. Poi però dobbiamo dire che è stato riregistrato. Tutto a Parma, in un altro studio sì, abbiamo dovuto riregistrarlo avendo cambiato la vecchia discografica, vecchia etichetta, insomma. Passando con una la nuova. Abbiamo citiamo quella nuova adesso. È la SFAM The Let's Production che ci sta seguendo. E qui Giuseppe Bisbano ha fatto un gran lavoro, perché ovviamente lui ha seguito, ha coordinato, sentiva, faceva, sì. Pensava. E lì eravamo in studio a Parma con Giuseppe Bisbano e Giovanni Pigino, che è poi dobbiamo dirlo che questa è una fortuna avere un fonico, perché non ce l'hanno tutti. Perché quando hai un fonico tuo, lui sa dove alzarti, dove abbassarti, perché sa a memoria tutto. Un fonico come Beppe. come sì. Beppe, e soprattutto in un gruppo elettronico come noi che abbiamo. Vabbè, se ci sta ascoltando, so che probabilmente sta seguendo in streaming. Lo salutiamo. Ciao, sì. Giuseppe. E abbassi 1.800. Abbassi 1.800. Fischia. Non sono euro. Bene, e un'altra cosa volevo chiedervi: se uno vuole materialmente, fisicamente il disco, come deve fare? Dunque, intanto in. Adesso è appena uscito, quindi fresco, freschissimo. È abbastanza fresco. È abbastanza fresco. È abbastanza fresco. È abbastanza fresco. Sì, come la mozzarella di bufala. È fresco, dai. Fresco. È abbastanza fresco. E, si può trovare su nei negozi di dischi. Sì, diciamo quelli che sono rimasti, dei pochi negozi dischi rimasti, probabilmente su ordinazione. Su ordinazione, probabilmente. Il catalogo Audio Globe, che è una grossa distributrice. Esatto, quindi. E sul sito proprio di Audio Globe si può anche ordinare direttamente online, quindi online si carta può di credito. Ordinare la si può ordinare proprio la copia fisica, mentre per quello che riguarda la copia digitale in tutti gli store, tipo citando il più usato che è iTunes, e quindi da lì si può scaricare la versione digitale. Ricordiamo che c'è in più l'attrice, il brano l'attrice, sì. il regalo solo su scaricando da iTunes. Benissimo. Allora, adesso abbiamo un altro pezzo, forse da disco o no, sbaglio? Sì, dal disco precedente, insomma. Sentiamo quello. Allora sì, questo pezzo. Ira. Ira, tratta dal primo album che abbiamo registrato nel 2003. Ok. Attenzione che forse potrebbe saltare all'inizio, ma forse no. Perché prima sì, poi no. Ma questo è un cimelio. Adesso vediamo. Sentiamo. Track. Se salta vuol dire che lei. No, non parte. Aspetta. Ho fatto una cavolatina io. Oppure Federico che te l'ha dato. Ho dimenticato io un tastino. Eccolo qua. Go! penso che non ci siano più speranze adesso. Io provavo. Troppo, no, provavo. Purtroppo, chiediamo scusa. No, l'alternativa era l'altro, nell'altro lettore sentirla così. No, lo so, chiediamo scusa agli ascoltatori, però purtroppo effettivamente è un cimeglio. Comunque, queste sono, questa canzone è tratta da Viola Box del 2003, si trova anche su YouTube. Chi avesse gradito e volesse ascoltarla meglio. CD esaurito, non si fa più, però. No, questo CD è esaurito. Questa, sì. Questa in acustico dal vivo, fatta a tipo flamenco. Flamenco. Flamenco non è male. Interessante, molto interessante. Sentiamo. No, non voglio. Niente. Niente. Non so, no, chiaramente no. Per noi sì, però per voi, ma 10 secondi, dai. 10 secondi. Dai. Anche prima erano 10 secondi, hanno fatto 4 minuti. Speriamo che sia facciamo così. Facciamo l'intro. È l'intro, fate l'intro. La prima strofa, il primo ritornello e basta, dai. Anche la seconda è la dai, ormai insomma. Da 2 minuti arrivi a 2 e mezzo, 3. Vai, proviamolo. 3 e mezzo. Siamo a Padova. Siamo a Padova. Questa è la storia di Padova. Perché piazza? Uno, dos, tres, cuatro. Questa era Barcelona Real Madrid. Era un po' diverso questo. Sì. Un po' diversa. Un pochino. Leggermente, sì. Era Ira in versione acustica, appunto. Flamenco padovano, dai. Flamenco padovano. Bene, abbiamo finito. Quasi. Sai che forse era più carina come nella versione flamenco? Sì, Beh, però è troppo blu vertigo l'altra. Più che blu vertigo. Ci no, sarebbe un altro nome, va bene così, va bene così. Ho detto qualcosa che non va. Non facciamo paragone. No, vabbè. No, assolutamente. Ah, vabbè. Cosa facciamo? Adesso dobbiamo salutare. Dobbiamo salutare, fare l'ultimo pezzo. Ma abbiamo ancora 4 minuti. Abbiamo 4 minuti, però ricordiamo se avete delle date. Sì, adesso suoniamo a Parma, abbiamo due date in acustico, quindi suoneremo il 7 di febbraio. 8 febbraio. 7 febbraio al Rattafia di Parma in acustico, ma appunto portiamo avanti anche il nostro promo acustico, e il 23 di febbraio al G Plus, sempre a Parma. Adesso abbiamo queste due date imminenti e poi dopo ce ne saranno altre fuori. Ricordiamo il disco, il titolo del disco. Il disco si intitola Ogni cosa intorno. L'etichetta l'etichetta è Sfam The Last Production. Il vostro sito www.ideabox.it, IDEA It, dove si trova di tutto, dove si trova tutto, si trovano tutti i link, i collegamenti a Facebook, Twitter, a tutto quello che riguarda il nostro canale YouTube, c'è tutto quello con il video, tra l'altro, di ogni cosa intorno. C'è il video di ogni cosa intorno. Non abbiamo mai parlato dei video che magari abbiamo il video di ogni cosa intorno, che è il nostro primo singolo, girato da Stefano Poletti, che è il regista di Baustelle, di Verdena, insomma, che è adesso in uscita. Disponibile su YouTube, si possono guardarlo tutti. Produttore artistico Andy, il nostro produttore artistico che tra l'altro ha una parte rilevante nel video. Nel video, sì. Ha fatto parte del video. produttore artistico, Andy, produttore, anche voi siete produttori. Sì, noi siamo noi stessi siamo produttori, autoproduciamo, arrangiatori di quelle che sono le nostre canzoni insieme a Andy, appunto, Andrea Fumagalli. Bene. Noi è piaciuto molto la vostra esibizione. Sì, sì, noi siamo molto contenti. Vi ringraziamo tanto. È un reverbero lì dentro. Lo so, il microfono con il quale. Ringraziamo tutta la band, soprattutto Matteo, che aveva dei problemi dal punto di vista dell'influenza, che ha superato. Sì, ho avuto purtroppo il naso chiuso, ma non importa. E ringraziamo anche Antonella che ci ha dato. Antonella Vini, sì, grazie mille. Grazie al ragazzo della regia. Scusaci per Sergio Bortolani. Scusaci per la canzone Ira tutta graffiata. No, anche tremenda, ma perdonaci. Ok. Salute. Sì, no, Mauri, domani abbiamo, di solito anticipiamo sempre chi c'è domani. Abbiamo lo show di Agostino dalle 21 alle 22:30. Abbiamo Lego, L-E-G-H-O. Lego è un musicista, e lui ha una band che fa tributo a Battisti, però domani sera verrà a presentare le sue cose, assolutamente, tutti i pezzi inediti suoi. Bello. Interessante, un cantautore. Tipo un dente. È un dente. Un dente. Tipo dente. Che anche lì Battisti. Che conosciamo bene, cioè almeno io conosco molto bene. Dentro, cioè, nel senso, grazie, carissimo. È di fidenza. Sì. Le vostre parti praticamente. Esatto. Okay. Caro Maurizio, grazie Sergio della collaborazione. Grazie agli ascoltatori, grazie ai nostri ospiti. Grazie mille. No, grazie a voi. Suoniamo adesso. Suoniamo. Allora facciamo a denti stretti, tratta da ogni cosa intorno. Certamente. Grazie. Buonanotte a tutti e alla prossima. Grazie a tutti. Ciao. Passi tu e non dimenticare di farmi del male, dipingimi così senza remore, un punto nero in una tela bianca. Non ci sei, vorrei trovarti, curarti. Solitudine, vieni a prendermi se puoi e non